Ad alta voce, Manuela Mandracchia legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, traduzione di Enrico Cicogna. Nonostante il suo ritorno trionfale, il colonnello Aureliano Buendía non si esaltava alle apparenze. Le truppe del governo abbandonavano le posizioni senza fare resistenza e ciò suscitava nella popolazione liberale una illusione di vittoria che non conveniva defraudare. Ma i rivoluzionari conoscevano la verità e più di tutti il colonnello Aureliano Buendía. Benché in quel momento avesse più di 5.000 uomini ai suoi ordini e dominasse due stati della costa, era cosciente di essere accerchiato contro il mare e coinvolto in una situazione politica così confusa che quando ordinò di restaurare il campanile della chiesa diroccato da una cannonata dell'esercito, padre Nicanor commentò dal suo letto di infermo: «Questo è uno sproposito! I difensori della fede di Cristo distruggono il tempio e i massoni lo fanno riparare!» In una notte di incertezza, mentre Pilar Ternera cantava nel patio con la truppa, le chiese di leggergli l'avvenire nelle carte. «Fa attenzione alla bocca», fu tutto quello che mise in chiaro Pilar Ternera dopo aver disposto e raccolto le carte per tre volte. «Non so cosa vuol dire, ma il segno è chiarissimo. Fa attenzione alla bocca». Due giorni dopo qualcuno diede all'ordinanza una scodella di caffè senza zucchero e l'ordinanza la passò a un altro e questi a un altro ancora, finché di mano in mano arrivò nell'ufficio del colonnello Aureliano Buendía. Non aveva chiesto caffè, ma già che era lì, il colonnello se lo beve. Conteneva una dose di noce vomica sufficiente ad ammazzare un cavallo. Quando lo portarono a casa era rigido e inarcato e aveva la lingua spaccata tra i denti. Ursula lo disputò alla morte. Dopo avergli pulito lo stomaco con vomitivi, lo avvolse in coperte calde e gli diede chiare d'uovo per due giorni, finché il corpo corrotto recuperò la temperatura normale. Al quarto giorno era fuori pericolo. Suo malgrado, costretto da Ursula e dagli ufficiali, rimase a letto ancora per una settimana. Solo allora seppe che non avevano bruciato i suoi versi. «Non ho voluto precipitare le cose», spiegò Ursula. «Quella notte, quando stavo per accendere il forno, mi sono detta che era meglio aspettare che portassero il cadavere». Nella nebbia della convalescenza, circondato dalle polverose bambole di Remedios, il colonnello Aureliano Buendía evocò, rileggendo i propri versi, i momenti decisivi della sua esistenza. Riprese a scrivere. Per molte ore, in margine ai sussulti di una guerra senza futuro, sciolse in versi rimati le sue esperienze ai confini della morte. Allora i suoi pensieri si fecero così chiari che poté esaminarli per il diritto e per il rovescio. Una notte chiese al colonnello Gerineldo Márquez: «Dimmi una cosa, compare, per cosa combatti?» «Per cosa vuoi che sia, compare?» rispose il colonnello Gerineldo Márquez. «Per il grande partito liberale». «Fortunato tu che lo sai», rispose lui. «Io, da parte mia, soltanto ora mi rendo conto che sto combattendo per orgoglio». «Questo è male», disse il colonnello Gerineldo Márquez. Il suo sgomento divertì il colonnello Aureliano Buendía. «Naturalmente», disse. «Ma in ogni modo, è meglio così che non sapere perché si combatte». Lo guardò negli occhi e aggiunse sorridendo: «Oh, che combattere come te, per qualcosa che non significa nulla per nessuno!» Il colonnello Gerineldo Márquez non era soltanto l'uomo di maggior fiducia del colonnello Aureliano Buendía, ma Ursula lo considerava altresì un membro della famiglia. Fragile, timido, di buona educazione naturale, era però più adatto alla guerra che al governo. I suoi consiglieri politici lo irretivano facilmente in labirinti teorici, ma riuscì a imporre a Macondo lo stato di pace agreste sognato dal colonnello Aureliano Buendía per morirvi di vecchiaia fabbricando pesciolini d'oro. Pur vivendo nella casa dei suoi genitori, pranzava da Ursula due o tre volte alla settimana. Iniziò Aureliano José all'uso delle armi da fuoco, gli diede una precoce istruzione militare e per parecchi mesi lo portò a vivere in caserma, col consenso di Ursula, perché si facesse uomo. Molti anni prima, quando era poco più di un bambino, Gerineldo Márquez aveva dichiarato il suo amore ad Amaranta. Lei era allora così persa nella sua passione solitaria per Pietro Crespi che aveva riso di lui. Gerineldo Márquez aspettò. Una volta mandò ad Amaranta un bigliettino dal carcere, chiedendole il favore di ricamargli una dozzina di fazzoletti di batista con le iniziali di suo padre. Le mandò il denaro. Dopo una settimana Amaranta gli portò in carcere la dozzina di fazzoletti ricamati insieme al denaro e rimasero per parecchie ore a parlare del passato. Quando uscirò di qui, ti sposerò, le disse Gerineldo Marquez accomiatandosi. Amaranta rise, ma continuò a pensare a lui mentre insegnava a leggere ai bambini e desiderò rivivere per lui la sua giovanile passione per Pietro Crespi. Il sabato, giorno di visita ai prigionieri, passava da casa dei genitori di Gerineldo Marquez e li accompagnava alla prigione. In uno di quei giorni Ursula si meravigliò vedendola aspettare in cucina che uscissero dal forno i biscotti per scegliere i migliori e avvolgerli in un tovagliolo ricamato per l'occasione. «Sposalo!» le disse. «Difficilmente ne troverai un altro come lui!» Amaranta finse una reazione di disgusto. «Non ho bisogno di andare a caccia di uomini!» ribatté. «Porto questi biscotti a Gerineldo perché mi fa pena sapere che prima o poi lo fucileranno!» Lo disse senza pensarci. Ma in quell'epoca il governo rese pubblica la minaccia di fucilare il colonnello Gerineldo Marquez se le forze ribelli non consegnavano Rioacha. Le visite si interruppero. Amaranta si chiuse a piangere, oppressa da un senso di colpa simile a quello che l'aveva tormentato quando era morta Remedios, come se di nuovo le sue parole irriflessive fossero state responsabili di una morte. Sua madre la consolò. Le assicurò che il colonnello Aureliano Buendía avrebbe fatto qualcosa per impedire la fucilazione e promise che lei stessa si sarebbe incaricata del riavvicinamento con Gerineldo Marquez quando fosse finita la guerra. Mantenne la promessa prima della scadenza prevista. Quando Gerineldo Marquez tornò nella casa, investito della sua nuova dignità di capo civile e militare, lo ricevette come un figlio. Concepì squisite blandizie per trattenerlo e pregò con tutta l'energia del suo cuore che si ricordasse della sua intenzione di sposarsi con Amaranta. Ma il giorno in cui Gerineldo Marquez le reiterò il desiderio di sposarla, lei lo respinse. «Non mi sposerò con nessuno», gli disse, «ma meno ancora con te. Vuoi tanto bene ad Aureliano da sposare me, perché non puoi sposare lui». Il colonnello Gerineldo Marquez era un uomo paziente. «Tornerò a insistere», disse, «prima o poi ti convincerò». Continuò le sue visite. Chiusa nella sua camera, ingoiando lacrime segrete, Amaranta si ficcava le dita nelle orecchie per non ascoltare la voce del pretendente che raccontava a Ursula le ultime notizie della guerra. E nonostante morisse dalla voglia di vederlo, aveva la forza di non andare a riceverlo. Il colonnello Aureliano Buendía poteva disporre allora del tempo per mandare ogni 2 settimane un rapporto particolareggiato a Macondo. Ma una volta sola, quasi 8 mesi dopo essersene andato, scrisse a Ursula. Un messaggero speciale portò una busta sigillata, nella quale c'era un foglio vergato con la calligrafia manierata del colonnello. «Abbiate molta cura di papà, perché sta per morire». Ursula si allarmò. «Se Aureliano lo dice, Aureliano lo sa», disse, e chiese aiuto per portare José Arcadio Buendía nella sua stanza da letto. Non solo era pesante come sempre, ma durante la sua prolungata permanenza sotto il castagno aveva sviluppato la facoltà di aumentare di peso come e quando voleva, al punto che 7 uomini non ce la fecero a sollevarlo e furono costretti a portarlo a strasciconi verso il letto. Un tanfo di funghi molli, di muffa, di antiche e rapprese intemperie impregnò l'aria della stanza appena cominciò a respirarla quel vecchio colosso macerato dal sole e dalla pioggia. La mattina dopo non lo ritrovarono nel suo letto. Dopo averlo cercato in tutte le stanze, Ursula lo trovò di nuovo sotto il castagno. Allora lo legarono al letto. Nonostante la sua forza intatta, José Arcadio Buendía non era in condizioni di lottare. Tutto gli era indifferente. Se era tornato al castagno, non lo aveva fatto di sua volontà, bensì per un'abitudine del corpo. Ursula lo curava, gli dava da mangiare, gli portava notizie di Aureliano. Ma in realtà l'unica persona con la quale egli poteva aver rapporto da ormai molto tempo era Prudencio Aguilar. Era Prudencio Aguilar che lo puliva, che gli dava da mangiare e gli portava affascinanti notizie di uno sconosciuto che si chiamava Aureliano e che era colonnello in guerra. Quando era solo, José Arcadio Buendía si consolava col sogno delle stanze infinite. Sognava di alzarsi dal letto, di aprire la porta e di passare in un'altra stanza uguale, con lo stesso letto dal capezzale di ferro battuto, la stessa poltrona di vimini e lo stesso quadretto della Vergine de los Remedios sulla parete in fondo. Da quella stanza passava in un'altra stanza esattamente uguale, poi apriva una porta ed entrava ancora in un'altra stanza esattamente uguale e poi in un'altra esattamente uguale fino all'infinito. Gli piaceva andarsene di stanza in stanza, come in una galleria a specchi paralleli, finché Prudencio Aguilar gli toccava la spalla Allora tornava di stanza in stanza, svegliandosi a ritroso, percorrendo la strada inversa, e trovava Prudencia Aguilar nella stanza della realtà. Ma una notte, 2 settimane dopo averlo riportato a letto, Prudencia Aguilar gli toccò la spalla in una stanza intermedia. E lui rimase lì per sempre, convinto di trovarsi nella stanza vera. Poco dopo, quando il falegname gli prendeva le misure per la bara, videro attraverso la finestra che stava cadendo una pioggerella di minuscoli fiori gialli. Caddero per tutta la notte sul villaggio, in una tormenta silenziosa, e coprirono i tetti, e ostruirono le porte, e soffocarono gli animali che dormivano all'aperto. Tanti fiori caddero dal cielo, che al mattino le strade erano tappezzate di una coltre compatta, e dovettero sgomberarle con pale e rastrelli perché potesse passare il funerale. Seduta nella poltrona a dondolo di Vimini, col ricamo interrotto posato sul grembo, Amaranta contemplava Aureliano José col mento imbrattato di schiuma che affilava il rasoio su una foglia di cactus per la sua prima rasatura. Si fece sanguinare i foruncoletti, si tagliò il labbro superiore cercando di modellarsi un paio di baffi nella peluria bionda e dopo tutto rimase uguale come prima. Ma il laborioso processo lasciò in Amaranta l'impressione di aver cominciato da quell'istante a invecchiare. «Sei identico ad Aureliano quando aveva la tua età», disse. «Sei già un uomo». Lo era ormai da molto tempo, dal giorno già lontano in cui Amaranta credeva che fosse ancora un bambino e aveva continuato a denudarsi nel bagno davanti a lui, come aveva sempre fatto, come si era abituata a fare da quando Pilar Ternera glielo aveva affidato perché finisse di allevarlo. La prima volta che lui la vide, l'unica cosa che gli fece impressione fu il profondo solco tra i seni. Era allora così innocente che chiese cosa le fosse successo e Amaranta finse di scavarsi il petto con la punta delle dita e rispose: «Mi hanno tolto fette e fette e fette». Un po' di tempo dopo, quando lei si rimise dal suicidio di Pietro Crespi e tornò a fare il bagno con Aureliano José, questi non badò più alla depressione, ma provò un brivido sconosciuto alla vista dei seni splendidi coi capezzoli viola. Continuò a esaminarla, scoprendo a palmo il miracolo della sua intimità, e si sentì accapponare la pelle in quella contemplazione, come si accapponava la pelle di lei al contatto dell'acqua. Fin da quando era molto piccolo, aveva l'abitudine di lasciare la sua amaca e di andare a fare l'ultimo sonno nel letto di Amaranta, il cui contatto aveva la virtù di dissipare la paura del buio. Ma dal giorno in cui aveva avuto coscienza della sua nudità, non era la paura del buio che lo spingeva a infilarsi sotto la zanzariera con lei, bensì l'ansia di sentire il respiro tiepido di Amaranta al risveglio. Un mattino, pressappoco all'epoca in cui lei respinse il colonnello Gerineldo Marquez, Aureliano José si svegliò con la sensazione che gli mancasse l'aria. Sentì le dita di Amaranta come lombrichi caldi e ansiosi che cercavano il suo ventre. Fingendo di dormire, cambiò posizione per eliminare ogni difficoltà. E allora sentì la mano senza la benda nera tuffarsi come un mollusco cieco tra le alghe della sua ansia. Anche se fingevano di ignorare ciò che entrambi sapevano e quello che ognuno sapeva che l'altro sapeva, da quella notte rimasero vincolati da una complicità inviolabile. Aureliano José non poteva conciliare il sonno finché non sentiva il valzer delle 12 all'orologio del salotto e la matura pulzella, la cui pelle cominciava a intristire, non aveva un istante di pace finché non sentiva scivolare sotto la zanzariera quel sonnambulo che lei aveva allevato, non immaginando che sarebbe diventato un palliativo alla sua solitudine. E non soltanto dormirono insieme, nudi, scambiandosi estenuanti carezze, ma si inseguivano negli angoli della casa e si chiudevano nelle camere a qualsiasi ora in un permanente stato di esaltazione senza sollievo. Furono sul punto di essere sorpresi da Ursula un pomeriggio in cui lei entrò nel granaio proprio mentre cominciavano a baciarsi. «Vuoi molto bene a tua zia?» chiese ad Aureliano José in tono innocente. Lui rispose di sì. «Fai bene», concluse Ursula, e finì di misurare la farina del pane e tornò in cucina. Quell'episodio strappò Amaranta al suo delirio. Si rese conto d'essersi spinta troppo lontano, di non stare ormai più giocando ai bacetti con un bambino, ma di guazzando in una passione autunnale, pericolosa e senza futuro, e la troncò di netto. Aureliano José, che a quei tempi terminava la sua istruzione militare, finì per ammettere la realtà e se ne andò a dormire in caserma. Il sabato andava coi soldati nella bottega di Catarino. Si consolava della sua ispida solitudine, della sua adolescenza prematura, con donne odorose di fiori morti che lui idealizzava nella penombra e che trasformava in amaranta con affannosi sforzi dell'immaginazione. Poco dopo cominciarono ad arrivare notizie contraddittorie della guerra. Mentre lo stesso governo ammetteva i progressi della ribellione, gli ufficiali di Macondo ricevevano rapporti confidenziali sull'imminenza di una pace negoziata. Verso i primi di aprile, un emissario speciale si presentò al colonnello Gerineldo Márquez. Gli confermò che effettivamente i dirigenti del partito avevano stabilito dei contatti coi capi ribelli dell'interno ed erano alla vigilia di concordare l'armistizio in cambio di 3 ministeri per i liberali, di una rappresentanza minoritaria in Parlamento e dell'amnistia generale per i ribelli che avessero deposto le armi. L'emissario era latore di un ordine strettamente confidenziale del colonnello Aureliano Buendía, che era in disaccordo coi termini dell'armistizio. Il colonnello Gerineldo Márquez doveva scegliere 5 dei suoi migliori uomini e prepararsi ad abbandonare con loro il paese. L'ordine fu eseguito nel più stretto riserbo. Una settimana prima che si annunciasse l'accordo, e in mezzo a una tempesta di voci contraddittorie, il colonnello Aureliano Buendía e 10 ufficiali di fiducia, tra i quali il colonnello Roque Carnicero, arrivarono furtivamente a Macondo dopo mezzanotte, dispersero la guarnigione, sotterrarono le armi e distrussero gli archivi. Allo spuntare del giorno avevano abbandonato il villaggio col colonnello Gerineldo Márquez e i suoi 5 ufficiali. Fu un'operazione così rapida e segreta che Ursula non ne venne a conoscenza che all'ultimo momento, quando qualcuno batté dei colpetti alla finestra della sua camera e mormorò: «Se vuole vedere il colonnello Aureliano Buendía, si affacci subito alla porta». Ursula saltò dal letto e uscì dalla porta in camicia da notte e riuscì appena a percepire il galoppo dei cavalli che lasciavano il villaggio in mezzo a un silenzioso polverone. Solo il giorno seguente si accorse che Aureliano José se n'era andato con suo padre. 10 giorni dopo l'annuncio della fine della guerra, dato da un comunicato congiunto del governo e dell'opposizione, si ebbe la notizia della prima sollevazione armata del colonnello Aureliano Buendía sulla frontiera occidentale. Le sue forze scarse e male armate furono disperse in meno di una settimana. Ma durante l'anno, mentre liberali e conservatori cercavano di fare in modo che il paese credesse alla riconciliazione, Aureliano Buendía promosse altre 7 sollevazioni. In quell'epoca morì Visitación e la sua ultima volontà fu che dissotterrassero da sotto il suo letto la paga risparmiata in più di 20 anni e la mandassero al colonnello Aureliano Buendía perché continuasse la guerra. Ma Ursula non si prese la briga di disseppellire quel denaro, perché in quei giorni correva voce che il colonnello Aureliano Buendía fosse stato ucciso nel corso di uno sbarco vicino al capoluogo della provincia. L'annuncio ufficiale, il quarto in meno di 2 anni, fu tenuto per certo per quasi 6 mesi, perché non si era più saputo nulla di lui. Improvvisamente, quando Ursula e Amaranta avevano già sovrapposto un nuovo lutto a quelli precedenti, arrivò una strana notizia. Il colonnello Aureliano Buendía era vivo, ma a quanto pareva aveva smesso di osteggiare il governo del suo paese e aveva aderito al federalismo trionfante in altre repubbliche dei Caraibi. Più tardi si sarebbe saputo che l'idea che allora lo animava era l'unificazione delle forze federaliste dell'America centrale per sbaragliare i regimi conservatori dall'Alaska fino alla Patagonia. La prima notizia diretta che Ursula ricevette da lui, diversi anni dopo che se n'era andato, fu una lettera spiegazzata e sbiadita arrivata di mano in mano da Santiago di Cuba. «Lo abbiamo perduto per sempre», esclamò Ursula leggendola. «Di questo passo farà il Natale in capo al mondo». La persona a cui lo disse, che fu la prima a cui mostrò la lettera, era il generale conservatore José Raquel Moncada, sindaco di Macondo da quando era finita la guerra. «Quell'Aureliano», commentò il generale Moncada, «peccato che non sia conservatore». Lo ammirava veramente. Come parecchi civili conservatori, José Raquel Moncada aveva fatto la guerra a difesa del suo partito e aveva ottenuto il titolo di generale sul campo di battaglia, benché mancasse di vocazione militare. Al contrario, come pure molti dei suoi compagni di partito, era antimilitarista. Considerava gli uomini d'arme dei fannulloni senza principi, intriganti e ambiziosi, abili solo ad affrontare i civili per farsi strada nel disordine. Intelligente, simpatico, sanguigno, uomo di buona tavola e fanatico dei combattimenti di galli, era stato in un certo momento l'avversario più temibile del colonnello Aureliano Buendía. Riuscì a imporre la sua autorità ai militari di carriera su un ampio tratto della costa. Una volta che si vide costretto per convenienza strategica ad abbandonare una posizione alle forze del colonnello Aureliano Buendía, gli lasciò due lettere. In una di queste, lunghissima, lo invitava a una campagna congiunta per umanizzare la guerra. L'altra lettera era per sua moglie, che viveva in territorio liberale, e la lasciò con la preghiera di farla arrivare a destinazione. Da allora, anche nei periodi più accaniti della guerra, i due comandanti concertarono tregue per scambiarsi prigionieri. Erano pause con una certa atmosfera festiva che il generale Moncada sfruttava per insegnare il gioco degli scacchi al colonnello Aureliano Buendía. Divennero grandi amici. Giunsero perfino a pensare alla possibilità di coordinare gli elementi popolari dei due partiti per liquidare l'influenza dei militari e dei politici di professione e instaurare un regime umanitario che utilizzasse quanto vi era di meglio nelle due rispettive dottrine. Quando finì la guerra, mentre il colonnello Aureliano Buendía svicolava tra le strette della sovversione permanente, il generale Moncada fu nominato correggitore di Macondo. Ottenne che Macondo fosse eretta a municipio e ne fu perciò il primo alcalde e creò un'atmosfera di fiducia che fece pensare alla guerra come a un assurdo incubo del passato. Bruno Crespi, che si era sposato con Amparo Mascote e il cui negozio di giocattoli e di strumenti musicali non smetteva di prosperare, costruì un teatro che le compagnie spagnole inclusero nelle loro tournée. Fu pure in quell'epoca che si restaurò l'edificio della scuola. Aureliano II e José Arcadio II, i volenterosi gemelli di Santa Sofia della Piedad, furono i primi a sedersi in quell'aula, con le loro lavagne, i loro gessetti, i loro bicchierini di alluminio con su il nome. Remedios, erede della bellezza pura di sua madre, cominciava a essere conosciuta come Remedios la Bella. Nonostante il tempo, i lutti sovrapposti e le pene accumulate, Ursula si rifiutava di invecchiare. Aiutata da Santa Sofia della Piedad, aveva dato un nuovo impulso alla sua industria di pasticceria e non soltanto recuperò in pochi anni la fortuna che suo figlio aveva consumato nella guerra, ma tornò altresì a inzeppare di oro puro le zucche sotterrate nella stanza da letto. «Fin tanto che Dio mi dà vita», soleva dire, «non mancheranno soldi in questa casa di pazzi». Così stavano le cose quando Aureliano José disertò dalle truppe federaliste del Nicaragua, si arruolò nella ciurma di un bastimento tedesco e comparve nella cucina della casa, massiccio come un cavallo, nero e peloso come un indio e con la segreta determinazione di sposare Amaranta. Nuevo encargos de mis amigos. Mañana que voy para arriba, tengo mucho que hablar con el diablo, tengo dudas sobre la vida y no sé si pensé demasiado. Esperanza. nuestro encuentro.